Intanto i titoli di apertura li rivediamo con maggiore dettaglio. Per il Sole 24 Ore, un credito d'imposta per le infrastrutture, questo è il titolo di prima pagina. Corriere della Sera invece, così il nuovo redditometro. Libero e Il Giornale invece sfruttano la frase di Monti, diventata già celebre, quella in cui ammette che l'azione del governo ha aggravato la recessione per invece migliorare la situazione in futuro. Libero titola Reo confesso e Il Giornale Monti si costituisce. Monti CGIL scontro sulla crescita, così apre Repubblica. Per La Stampa, sindacati un mese per l'intesa. Il Fatto Quotidiano insiste sulla trattativa, tutto vero, infatti processano i PM, la trattativa Stato-mafia. Mentre crescita, la CGIL sfida Monti, questo per l'Unità. Il Manifesto invece sull'articolo 18, il referendum che è stato depositato ieri da alcune forze politiche, tra cui anche protagonisti Paolo Ferrero, che avremo ospite alle 8:15, con la vignetta di Vauro di un operaio preso a calci lì in quel posto che dice firmo al volo. Esame produttività, questa è l'apertura di Avvenire, mentre Il Messaggero Monti appello ai sindacati, questo è il titolo di prima pagina. Io vorrei partire da una notizia che mi ha abbastanza colpito e avete sentito anche nel giornale radio, la trovate poi sviluppata su molti giornali, riguarda il processo alle cosiddette nuove Brigate Rosse che è arrivato in Cassazione con le condanne e ora è stata depositata la sentenza e dunque si capisce qualcosa di più del perché la pena nei confronti delle persone che attentavano anche alla vita di Pietro Ichino, senatore del Partito Democratico, che hanno cercato di fare, volevano progettare un attentato al quotidiano Libero e volevano attentare alla vita di altre persone, queste persone non sono considerate dei terroristi, ma solamente dei sovversivi. Per questo le pene ridotte. 9BR non è terrorismo. Questo, per esempio, è il titolo che trovate a pagina 23 del Corriere della Sera con Luigi Ferrarella che spiega: un'associazione sovversiva, cioè una banda che con la lotta armata intendeva perseguire esclusivamente obiettivi di elezione per ottenere un effetto paradigmatico e innestare meccanismi di emulazione. Queste furono fino al 2007, quando furono arrestate per la Cassazione, le nuove Brigate Rosse, Partito Comunista Politico Militare, non invece un'associazione con finalità di terrorismo che agisse anche con il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione o con l'intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri o la volontà di destabilizzare gli assetti istituzionali. Riepiloga Ferrarella: volevano appunto attentare alla vita di Pietro Ichino, volevano fare progettare attentati alla sede del quotidiano Libero, colpire il manager della Breda Vito Schirone. Nonostante ciò, appunto, sono sovversivi ma non terroristi, e questo è un po' il titolo di tutti i quotidiani. Le nuove BR volevano uccidere ma non sono dei terroristi, così per esempio titola La Stampa pagina 20, o Il Messaggero: pene ridotte alle nuove BR per la Cassazione non è terrorismo. Su questo è interessante il commento di Filippo Facci in prima pagina di Libero. Scrive Facci dal titolo Brigatista sì, terrorista no. La Suprema Corte ha riconosciuto che i condannati erano sovversivi ma non terroristi, giacché il progettare dei singoli attentati mirati, secondo la recente giurisprudenza, non è da considerarsi terrorismo. Messo così suona scemo, ma se approfondite le varie modifiche di legge dello scorso decennio, scoprite che suona scemo uguale, come è capitato tutte le volte che dei governi hanno cercato di colpire delle categorie e hanno legiferato a botta calda sulla base di scandali e sondaggi, si trattasse di rom, clandestini, stupratori o anche leghisti che rischiavano incriminazioni per terrorismo. L'esito spesso è un pasticcio inestricabile con gli articoli di legge che si elidono a vicenda. Sostenere noi applichiamo soltanto la legge è spesso un paravento a uso di magistrati che la legge l'hanno appena stravolta, ma altre volte, purtroppo, è davvero così. I magistrati hanno lavorato e condannato con leggi che meramente si ritrovavano. È questo il caso. Ora l'applauso va a chi quelle leggi le ha fatte. Dunque c'è anche una notizia per, diciamo, in maniera molto chiara. Filippo Facci in questo caso dice la colpa non è certo dei magistrati ma di chi ha fatto le leggi, vale a dire i politici, i parlamentari che si sono ritrovati a fare leggi che applicate poi arrivano a giustificazioni come queste che sicuramente suonano quantomeno inconsuete e strane, vale a dire non è terrorismo progettare di colpire appunto queste persone, ma solo ovviamente tra virgolette un'accusa di associazione sovversiva. Vabbè, vi voglio raccontare cosa è successo a Trapani. A Trapani in consiglio comunale, lo racconta il Fatto Quotidiano a pagina 11, un paio di sere fa si doveva discutere di 7 milioni di euro di buco di bilancio, dunque una seduta che si temeva potesse essere abbastanza calda. E che cosa è successo? Effettivamente nel consiglio comunale di lunedì un'appendice da Oggi le Comiche: da una parte l'ex sindaco avvocato Girolamo Fazio del Popolo della Libertà, oggi consigliere dopo 10 anni appunto da sindaco, dall'altra un imprenditore Salvuccio Pumo del Movimento per le Autonomie, racconta Rino Giacalone sul Fatto. Pumo attacca Fazio accusandolo del disavanzo. A fine seduta i due si prendono a gavettoni, ma neanche fuori dall'aula. Continuano poi a inseguirsi durante i corridoi del palazzo. Fazio marca l'avversario, lo raggiunge fin dentro il bagno del municipio, da dove poi Pumo esce con il naso insanguinato, causa un morso subito dall'ex sindaco. Ma poi danno delle spiegazioni da studentelli. Scherzavamo, ha spiegato l'ex sindaco, lui mi ha bagnato per primo. La mia reazione è stata quella di rincorrerlo per ripagarlo con la stessa moneta. L'ho raggiunto in bagno, eravamo a distanza ravvicinata e lui ha alzato repentinamente la testa sbattendo sui miei denti. Anzi, su un dente, facendosi solo un taglio. Non comprendo come si possa tentare di strumentalizzare una circostanza che non ha nulla di violento. Mentre l'imprenditore dice c'è stato un suo finto abbraccio e dopo il morso al naso. Insomma, è finito a morsi al tribunale di Trapani, al consiglio comunale di Trapani, così almeno dice il Fatto, ma la versione dell'ex sindaco non l'ho, sembra un po' quella del pugile, gli ho dato tante di quelle testate sui guantoni, no? Quello che finì livido dicendo l'ho preso a testate per 15 round sui suoi guantoni. E l'ex sindaco dice così, non l'ho morso, è lui che con una mossa repentina ha sbattuto il suo naso, la sua faccia contro il mio dente. Vabbè, si discuteva appunto di 7 milioni di euro di buco di bilancio. La cosa più importante, cioè come trovare questi milioni di euro, credo che non sia uscita da quel consiglio comunale, solo punti di sutura di fatto. C'è ancora tanta economia sui giornali. Ieri questa frase del presidente del consiglio Mario Monti, cioè a dire, ha detto Monti, è vero, le nostre scelte hanno probabilmente contribuito ad aggravare la crisi, le nostre scelte di governo, ma questo nell'immediato, perché bisogna porre le basi per una crescita futura. E ovviamente l'opinione pubblica e i giornali si spaccano su questo, perché Libero e il Giornale ne approfittano subito per titolare: ecco Monti reo confesso, lo ha ammesso lui stesso, hanno aggravato la crisi. Per il Giornale addirittura Monti si costituisce, ho aggravato la crisi. Altri giornali invece dicono ha detto quello che dovrebbe dire un politico, cioè la verità. E forse non ci siamo molto abituati dalla politica tradizionale, cioè Monti è davanti a tutti gli italiani ha detto sì, è vero, con le nostre scelte abbiamo contribuito probabilmente ad aggravare la crisi, ma abbiamo posto le basi per una ripartenza nel futuro, che si spera ovviamente sia un futuro molto molto prossimo. Vi piace questa idea di un politico che ammette di aver fatto delle scelte come esecutivo, magari impopolari, che magari hanno aggravato la situazione, ma in una prospettiva futura più rosea? Oppure che ne pensate? È un qualcosa, come scrivono Libero e il Giornale, ecco, è un'ammissione di fallimento. C'è da dire che in realtà questo, se volete, è l'aspetto più di colore, se mi passate questo termine, della giornata di ieri, delle dichiarazioni di Mario Monti. In realtà il tema vero è quello di un tentativo di rilancio, di dialogo, di concertazione tra le parti sociali, il governo con i sindacati, Monti alle parti, tra un mese l'accordo sulla produttività. Ecco, questi sono gli aspetti più più, che incidono di più poi sull'economia reale. A pagina 3 del Sole 24 Ore Lina Palmerini racconta sulla traiettoria Milano-Roma che Mario Monti lancia la sfida produttività sul piano dei tempi, un mese per portare i primi risultati da mostrare anche ai summit europei dell'8 e 12 ottobre. E tra l'altro fa sapere il Corriere della Sera che è il ministro Corrado Passera, colui che è stato scelto nella maniera vera e propria da Mario Monti per portare avanti questa trattativa. Passera diventa l'uomo della trattativa, questo è il titolo a pagina 3 del Corriere della Sera, racconta Enrico Marro. Il ministro è l'ora di Corrado Passera, il super ministro del governo Monti, dovrà gestire lui la trattativa con le imprese e i sindacati con l'ambizioso obiettivo di arrivare entro un mese a un accordo per aumentare la produttività. È stato lo stesso premier ieri durante l'incontro a Palazzo Chigi a incaricarlo. Toccherà al ministro dello sviluppo economico seguire il confronto, e così ecco che l'ex banchiere è arrivato al governo accompagnato da grandissime aspettative. Ha recitato finora un ruolo secondario, dovrà ora salire in cattedra, misurarsi con l'asprezza del confronto con i sindacati, in particolare con la CGIL, che ormai è avviata verso una mobilitazione che partirà con lo sciopero del pubblico impiego il 28 settembre e dovrebbe culminare con lo sciopero generale alla fine di ottobre. Tra l'altro anche una battuta di Monti che dopo che Passera, pronto a mettersi a disposizione di un eventuale accordo tra le parti sociali, ha detto: attento a quello che dici, tra un momento le tue parole finiscono in rete. Lo so, ma voglio dirlo lo stesso, ha risposto così Passera, che si è appunto impegnato a mettere a disposizione di un eventuale accordo le risorse, anche se limitate. Dunque un ministro Passera che è pronto a dire ci sono anche le risorse per questo accordo. Certo, il fronte del lavoro è il fronte più caldo, no? È ancora... È molto viva le immagini, sono vive le immagini di quello che è avvenuto a Roma due giorni fa con gli operai dell'Alcoa che hanno manifestato, ci sono stati anche scontri di piazza. Tra l'altro c'è su questo sia la notizia di un rinvio di due mesi, questo per il Corriere della Sera, continuano all'interno della regione Sardegna anche le proposte davanti al governatore Cappellacci delle aziende che sono pronte a rilevare l'Alcoa. E oggi il Sole 24 Ore rivela che c'è una terza proposta. Alcoa arriva una terza proposta, questa è una proposta italiana, racconta Cristina Casadei a pagina 6. Energia eolica per alimentare la più energivora delle produzioni, quella dell'alluminio primario. Non è un'ipotesi stravagante, ma è il fulcro di una nuova manifestazione di interesse per l'Alcoa di Portovesme. Da dove viene? Da un'azienda italiana pronta a farsi avanti, la Kitegen Research di Chieri, in provincia di Torino. Il presidente Massimo Ippolito premette che Alcoa è senz'altro l'azienda che consuma più energia elettrica in Italia per produrre il fabbisogno primario italiano di 150.000 tonnellate di alluminio, dunque non un bellissimo biglietto da visita. Richiede infatti 2.300 gigawatt all'ora. Secondo la valutazione di Ippolito, questo significa che i 15 anni passati di energia sovvenzionata sono costati alla collettività oltre 1 miliardo di euro, spiega questa lettera. Però nonostante questa premessa, la società di Chieri, che ha una tecnologia che prevede la realizzazione di fattorie del vento toposferico ad altissima densità energetica territoriale che permettono da un qualsiasi territorio sardo di circa 1 km² di estrarre i 300 megawatt necessari allo stabilimento Alcoa con disponibilità di oltre 5.000 ore, ebbene con questa nuova tecnologia ha manifestato l'interesse a valutare il potenziale acquisto della Alcoa. Sta di fatto che staremo a vedere, ovviamente questa è una trattativa che va avanti anche con i rischi di tensioni sociali che abbiamo visto. È invece un po' sotto traccia, perché l'informazione italiana è sempre così: si spara una notizia, si diventa la prima pagina dei giornali, poi al giro di tre giorni ci si dimentica delle cose. Ma settimana scorsa, solo appena qualche giorno fa, si parlava del decretone sanità, quello che è stato approvato. La tassa sulle bibite annunciata è stata tolta totalmente. E il ministro Balduzzi ha detto: vabbè, ma almeno abbiamo lanciato il dibattito, che vabbè, basta un convegno. La questione del gioco d'azzardo legalizzato, tutti i limiti che si volevano mettere, i 500 metri, non si può mettere un videopoker, tanto per far capire, a 500 metri da scuole o ospedali, poi è diventato 200 metri, è sparito anche il limite dei 200 metri. Il Messaggero, fumo e slot, slitta la riforma anche sul tema del fumo, rinviata a gennaio la stretta su sigarette e videopoker. Eccolo lì, è svanita ed è sparita la norma che vietava la presenza di macchinette vicino alle scuole. Racconta Michele Di Branco a pagina 14. La pressione dei produttori ha avuto la meglio. Uno dei nodi principali del decreto Balduzzi, quello sui videopoker, è stato infatti risolto venendo incontro alle loro richieste. Dal testo definitivo è sparita la contestatissima norma che vietava la presenza di apparecchi nel raggio di 200 metri dalle scuole. Viene da pensare, e tenete conto di questo dato, questo secondo me è il dato più importante, si attaccano le lobby, ecco, le lobby hanno vinto ancora, forse la vera lobby ha il volto dell'assegno che ogni anno lo Stato, il Ministero del Tesoro, incassa dal settore giochi in termini di tasse. Sapete quant'è, cari ascoltatori? È di 3,9 miliardi di euro circa all'anno. Questo guadagna lo Stato dal gioco d'azzardo legalizzato. E allora giustamente il Messaggero fa notare, forse i primi a non volere rinunciare per la stretta sul gioco a questi 3,9 miliardi, sono quasi 4 miliardi di euro l'anno in tasse, sono al Ministero dell'Economia stessi, i primi a non volerlo. Oh, cari ascoltatori, oggi è un giorno decisivo per l'euro, perché anche qui se ne parla poco. Sul Sole 24 Ore trovate, e anche su Repubblica, un'intera pagina, su tutti i giornali per la verità ci si concentra su quello che decideranno i giudici, 8 giudici di Karlsruhe in Germania, decideranno sul fondo salva stati se accogliere alcuni ricorsi che lo giudicano incostituzionale secondo la Costituzione tedesca o se lo giudicano invece costituzionale. Sono 8 i giudici, se li volete vedere, i giudici che sono anonimi per noi, per voi e per tutti noi, hanno dei nomi che non dicono nulla, ma sono gli 8 giudici che potrebbero decidere il destino dell'euro e dell'eurozona. Li trovate a pagina 10 del Sole 24 Ore, sono, vediamo, 1, 2, 3 donne e 5 uomini. Hanno dai 48 ai 57, 64 anni, insomma una media dai 48 ai 65 anni tutti, sono gli 8 giudici della Corte Costituzionale tedesca che dovranno esprimersi oggi e pare, secondo i rumors, che ci sarà un sì, anche se condizionato. Ovviamente i mercati sono pronti anche agli scenari possibili per la sentenza del sì o del no. Oh, invece se vogliamo raccontare di politica, certamente il lavoro ancora in primo piano, c'è Berlusconi che sta in silenzio, ma voglio partire da qui prima del traffico, da una nota di colore. 2 giorni fa Massimo D'Alema ha detto alla festa del PD praticamente chiunque dopo Berlusconi avrebbe fatto una discreta figura al governo, anche Gianni del ristorante Cacio e Pepe che è sotto casa mia. Ovviamente Gianni del ristorante Cacio e Pepe è diventato subito una star. Eccolo qui intervistato su Libero, il cuoco di D'Alema, subito presentato così, in realtà è ristoratore sotto casa. Io al posto di Monti, perché no? Non esageriamo, ha fatto il mio nome in quel momento, gli sono venuto in mente io. Ci conosciamo, qui a Prati sono abbastanza noto, lui viene spesso a mangiare da me. Ha detto Gianni, ma avrebbe potuto fare il nome di chiunque altro. Era un modo per sottolineare che Berlusconi non poteva più rimanere al governo. E però poi gli chiedono un'analisi politica, capite? Gianni della trattoria Cacio e Pepe si azzarda eccolo qua, in un'analisi politica. I problemi sono tanti, nessuno ha la bacchetta magica, le riforme certo sono inevitabili, gli italiani non si erano resi bene conto dell'entità della crisi, adesso ne hanno preso coscienza e sono demoralizzati, hanno cambiato gli stili di vita, per esempio ordinano il minimo indispensabile, magari un piatto unico, io cerco di non aumentare i prezzi. E quale piatto descrive meglio l'Italia della crisi? Ecco, questa domanda di Rita Cavallaro a Gianni Benedetti di Cacio e Pepe. Sicuramente, e dice lui, gli spaghetti Cacio e Pepe. Ecco, questo, la brillante analisi politica del ristoratore di D'Alema, diventato l'oste Gianni di Cacio e Pepe, diventato una star dopo che D'Alema ha detto, dopo Berlusconi, pure Gianni di Cacio e Pepe avrebbe fatto meglio al governo. E c'è da dire che trovate il silenzio di Berlusconi, che sta diventando un po' un mistero. È in Kenya con Briatore, torna forse venerdì andrà alla manifestazione organizzata da Giorgia Meloni a Treju. Sabato sicuramente sarà su una crociera del giornale, cioè un'iniziativa in crociera il weekend, e Berlusconi dirà qualcosa, ma secondo alcune analisi non dirà neanche granché, si limiterà a fare coraggio ai suoi, a dire ce la possiamo fare eccetera, ma non svelerà le vere intenzioni, le reali intenzioni. Secondo il Corriere della Sera, Paola Di Caro lo scrive a pagina 13, è un silenzio tattico perché Berlusconi è sicuro così si spaccherà il Partito Democratico e sarà Renzi a spaccarlo. E dunque anche per Salvatore Dama, un altro molto attento a quello che succede in casa Berlusconi, a pagina 8 di Libero, il Cavaliere non esce dal letargo, la situazione è troppo confusa per prendere decisioni. Sta di fatto che in prima pagina del Corriere della Sera Enrico Galli della Loggia oggi fa l'editoriale dal titolo Un partito allo specchio, un editoriale molto duro su quella che definisce Galli della Loggia la crisi d'identità del PDL. Proprio questo partito, quello che ancora la maggioranza in Parlamento, scrive Della Loggia, è di fatto sparito dalla scena. Essendosi il suo capo ritirato da mesi sotto la tenda, il PDL si è dileguato, sicché sulla nostra scena politica non c'è più la destra, quasi a conferma di una patologica anomalia della vicenda politica italiana nell'età della Repubblica. Del PDL si stanno perdendo le tracce. Questa incredibile paralisi che ha colto gli uomini, le donne del PDL si spiega solo con la paura. Oggi per il PDL e nel PDL, infatti, fare politica davvero non può che significare innanzitutto prescindere da Berlusconi, andare oltre Berlusconi. Ma proprio qui sta il problema, dal momento che con lui alla testa del PDL può sempre sperare in un 18-20% di voti, il che vuol dire la certezza per tutto il suo stato maggiore allargato di essere rieletto. Invece senza Berlusconi perfino il 10% è problematico e dunque per tanti la non rielezione è assicurata. E poi è facile a dirsi andare oltre Berlusconi, ma se poi quello decide di ricominciare come se nulla fosse, quale fine possono immaginare di fare i superatori? Nei partiti di plastica, si sa, la prudenza non è mai troppa. Tra un seggio parlamentare e il cestino della carta straccia non c'è che un passo falso. E questa, secondo Galli della Loggia, è la paralisi degli uomini, delle donne, del PDL che, in attesa di capire che farà Berlusconi, non si azzardano a buttare lì il tema del superamento di Berlusconi. A sinistra, invece, adesso non so se le previsioni che vengono attribuite a Berlusconi, Renzi spaccherà il PD o comunque ci sarà un'implosione del centro-sinistra, siano veritiere o meno. Sta di fatto che ieri c'è stata un altro episodio che rischia di terremotare il centro-sinistra, vale a dire Vendola, Di Pietro insieme a Paolo Ferrero, che sarà il nostro ospite alle 8:15, e altri, Di Liberto, Bonelli dei Verdi, la FIOM, la CGIL, hanno presentato la richiesta di referendum per modificare l'articolo 18. Raccolta di firme che parte, deposito in Cassazione della richiesta di questo referendum. Sono due alleati, eccolo qui, referendum. Scontro tra PD e Vendola, così si mette a rischio l'alleanza. C'è questa foto, tra l'altro, di Vendola, Di Pietro, Ferrero, Di Liberto e gli altri, tutti coloro che hanno depositato davanti alla Corte di Cassazione, che racconta in un retroscena Repubblica, ha suscitato le ire del PD, del segretario del PD Bersani, la foto del palazzaccio che mette assieme l'alleato Vendola con Ferrero, Di Liberto, Bonelli, Cobas, Di Pietro, lo ha molto infastidito. Così racconta Goffredo De Marchis a pagina 7 di Repubblica. Se vinciamo, Nichi dovrà adeguarsi a un altro stile e a gestire le controversie nella maggioranza in maniera diversa. Anche il Fatto Quotidiano racconta, articolo 18, il referendum inguaia il Partito Democratico. Mentre più graffiante è Iena, Riccardo Barenghi sulla Stampa, la foto di Vendola con Di Pietro, Ferrero, Bonelli e Di Liberto sembra uscita da un famoso film di Dino Risi, I Mostri. Questo è la consueta rubrica di Iena a pagina 3 sulla Stampa. C'è da dire questo, devo un po' andare di corsa perché il tempo passa. Il Fatto Quotidiano apre per l'ennesimo giorno sulla questione della trattativa Stato-mafia, che è ormai il tema principe per il giornale diretto da Antonio Padellaro. Tutto vero, la trattativa ci fu, ci sono le deposizioni di Claudio Martelli, ex ministro della giustizia, e Vincenzo Scotti davanti alla commissione antimafia. Claudio Martelli, che ribadisce uomo chiave della trattativa, fu Oscar Luigi Scalfaro, il regista dominus della strategia che per fermare le stragi tentò di assecondare l'ala moderata di Cosa Nostra. E tra l'altro in questo come inserire la vicenda dell'avvocato Carlo Taormina, ex parlamentare, che ha fatto un esposto per le telefonate di Mancino, cioè ha denunciato il capo dello Stato Giorgio Napolitano per attentato alla Costituzione. È una cosa molto seria, racconta Alberto Custodero su Repubblica, pagina 13. Per la prima volta dall'inizio della legislatura si riunirà domattina alle 8 il comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa contro il capo di Stato presieduto da Marco Follini, perché è stato presentato un esposto contro Napolitano dall'avvocato Carlo Taormina. Il Presidente della Repubblica avrebbe, secondo Taormina, attentato alla Costituzione tentando di interferire nell'attività dei magistrati di Palermo che stanno indagando sulla trattativa Stato-mafia. L'intenzione del comitato quale sarebbe? Quella di archiviare tutto e subito. Però la denuncia intanto c'è stata. Vabbè, io mi devo fermare qui? Sì, guardo Peter Bescapè, mi devo fermare qui. C'era tutta la vicenda della cronaca di Milano, ieri un'altra sparatoria. Vabbè, chiudiamo col sorriso. Rompipallone di Gene Gnocchi. Il milanista Niang, 17 anni, beccato alla guida senza patente, è stato subito rilasciato. Ha detto di essere il nipote di Mubarak. Questo Gene Gnocchi col suo rompipallone, il giornale radio.